Perfetta Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. È finito il tempo in cui chi si ritiene furbo possa pensare di avere la meglio. Ma contemporaneamente noi dobbiamo far sì che per questo messaggio arrivi forte e chiaro al cuore della stragrande maggioranza degli italiani, che sono persone straordinariamente per bene. Capito, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, siete persone straordinariamente per bene, però bisogna capire che non si può più fare i furbi. L'ha detto a proposito di lotta all'evasione fiscale oggi il Presidente del Consiglio Renzi, ma parleremo molto di politica in senso di partiti oggi, perché da una parte c'è di nuovo una bufera dentro il Movimento 5 Stelle. Avevamo appena avuto ieri un esponente, il capogruppo alla Camera del Movimento, e oggi ci sono altre due espulsioni, quindi leggevo adesso le ultime agenzie, attivisti e dissidenti sotto casa del leader, quindi di Grillo. Raggiungeremo uno dei critici all'interno del Movimento 5 Stelle, e poi parleremo anche di questa nuova sfida che il leader di SEL, Vendola, lancia a Renzi per un'alternativa di sinistra al PD. Insomma, una puntata ricchissima, ci saranno un sacco di cose. Parleremo anche di questa notizia che ha un po' allarmato nelle ultime ore, ma non deve assolutamente gettare nel panico sui vaccini antinfluenzali. Ne parleremo tra pochissimo per chiarire se ci sono rischi, non ci sono rischi, insomma un sacco di cose, quindi correrò abbastanza. Voi, se volete commentare le varie notizie, avete sempre i due modi per farlo: o andare sulla pagina Facebook di Effetto Notte e aderire naturalmente con entusiasmo a questa pagina, oppure c'è il numero per i messaggi, gli sms, che è il 349 238 6666. Cominciamo come sempre con riepilogare la giornata. Vaccino antinfluenzale, l'AIFA lo blocca per 3 morti sospette, stop per 2 lotti, decessi a 48 ore dalla somministrazione. Legge di stabilità, ultime modifiche prima dell'approdo in aula domani, il Jobs Act in Senato da martedì prossimo. Movimento 5 Stelle, nella consultazione online la rete espelle 2 deputati, Grillo accusa, si tengono lo stipendio. SEL, Nichi Vendola lancia Human Factor per un'alternativa di sinistra al PD. Far West in autostrada, assalto a un portavalori con fiamme e chiodi, ladri in fuga sulla 1, e il calcio, giornata di Europa League, ma ci sono anche le azzurre che si giocano la qualifica per i mondiali. E partiamo quindi da questa notizia, vi dicevo, arrivata nel tardo pomeriggio, che non deve però allarmare. Ci sarebbero 3 sospetti decessi legati alla somministrazione di dosi dei 2 lotti del vaccino antinfluenzale Fluad, il cui utilizzo è stato oggi bloccato dall'AIFA, dall'Agenzia Italiana del Farmaco. I 3 eventi ad esito fatale, specifica l'AIFA, hanno avuto esordio entro le 48 ore dalla somministrazione delle dosi dei 2 lotti. Allora, coinvolgo il professor Fabrizio Pregliasco, che forse è caduto il collegamento, ne parleremo tra pochissimo. Il professore è virologo dell'Università degli Studi di Milano. È una notizia che naturalmente può creare una certa preoccupazione, perché sono farmaci passati da canali pubblici e medici di base, però probabilmente si può trattare di casi straordinari, eccezionali. Ritorniamo su questo argomento. Parliamo invece della pagina economica, con la legge di stabilità, con le ultime novità per la manovra che domani arriva alla Camera. Dal tetto alle pensioni d'oro, nuovi criteri per gli esami di maturità, dalla detrazione per i politici che versano compensi al partito, agli sgravi per chi assume lavoratori in mobilità. Sono tante le novità portate alla manovra in commissione bilancio della Camera, dove il testo è stato approvato nella tarda serata di ieri e approderà domani in aula. Un capitolo riguarda anche la lotta all'evasione fiscale, con risorse aggiuntive per il 2015 per circa 3,4 miliardi di euro, annuncia il ministro dell'economia Padoan. Un impegno che, dice il titolare dell'economia, sarà rafforzato anche attraverso il pieno utilizzo da parte dell'Agenzia delle Entrate delle banche dati per stanare chi evade. Nello stesso tempo il governo, in linea con quanto già detto da Renzi, lavorerà per semplificare la tassazione. Così il ministro Padoan nel Question Time al Senato. Credo che ci sia accordo molto diffuso in quest'aula in questo momento sul fatto che la semplificazione fiscale è uno strumento strumento essenziale, un elemento fondante della strategia di riforma del governo. Vorrei ribadire che il governo è fortemente impegnato a completare tutte le componenti della delega fiscale entro i termini previsti. E intanto, come si diceva, rush finale per la legge di stabilità nel fine settimana, il voto di fiducia. La manovra passerà quindi al Senato per l'approvazione definitiva entro Natale. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E Renzi ha ribadito oggi che dopo anni di Pantano e sabbie mobili arrivano le riforme. Nel pomeriggio poi ha presenziato la firma del contratto da $1 miliardo tra ATR, cioè la joint venture paritetica formata da Finmeccanica, Alenia, Aermacchi e Airbus Group, e la compagnia aerea indonesiana Lion Air per 40 aerei, la più grande commessa di ATR degli ultimi 20 anni. In mattinata poi Renzi è stato in visita agli allievi della scuola di polizia tributaria e ha parlato, come dicevamo all'inizio, di lotta all'evasione. È finito il tempo in cui chi si ritiene furbo possa pensare di avere la meglio, ma contemporaneamente noi dobbiamo far sì che per cui questo messaggio arrivi forte e chiaro al cuore della stragrande maggioranza degli italiani, che sono persone straordinariamente per bene. Dobbiamo fare uno sforzo di semplicità. Bene, abbiamo ripreso il professor Pregliasco, professore virologo dell'Università degli Studi di Milano. So che è in treno, ma era assolutamente necessario che lei ci chiarisse un po' le idee su queste 3 morti sospette per il vaccino influenzale. Professore. Infatti, perdonatemi che c'è un po' di rumore. Prego. Ma sostanzialmente il problema è questo. 3 casi di segnalazione che hanno dovuto, per giusta precauzione, segnalare, far sì che l'AIFA decidesse questo ritiro precauzionale. Si tratta, per quanto si è saputo, ma bisognerà approfondire le cose, di decessi legati in un caso a un infarto e a una morte di un soggetto che già nel momento dell'esecuzione della vaccinazione era in condizioni cliniche piuttosto precarie. Quindi questi dati evidenziano solo una correlazione temporale. Il vaccino in questione è stato già usato in più di 50 milioni di dosi da più di 10 anni e mai ha dato effetti così rilevanti. Escluderei che ci sia un cluster, come si dice, legato a un lotto avariato, anzi risulterebbe già da una serie di controlli che il vaccino come tale era ed è in buone condizioni. Di sicuro l'attenzione è spasmodica, in questi anni c'è una scarsa fiducia nei vaccini e credo che sia stato giusto e necessario questo ritiro precauzionale per garantire la salute dei cittadini, ma penso che nei giorni successivi avremo, spero, conferme positive rispetto alla sicurezza di un vaccino che ci protegge, ed è importante ribadirlo, da una patologia che magari è banale per la gran parte delle persone, ma per soggetti fragili invece può essere un elemento davvero di rischio per la vita, per complicanze rilevanti. Professor Pregliasco, quindi lei diceva questi 2 lotti che sono stati ritirati è solo per motivi precauzionali, perché lei esclude che possa esserci un legame causa-effetto, quindi a chi vuole vaccinarsi contro l'influenza consiglia di continuare a farlo? Assolutamente sì, perché la malattia, anche se quest'anno la stagione ce l'aspettiamo non pesante, comunque nelle persone con problemi cardiaci, respiratori, cronici, negli anziani in genere, davvero è un rischio per la salute e non dobbiamo abbassare la guardia, anche se già sui vaccini in genere, anche quelli infantili e in particolare sull'influenza, nel passato ci sono stati una serie di segnali pesanti, negativi ma ingiustificati, che ne hanno ridotto anche qui l'utilizzo, ed è un male rispetto agli effetti di salute sulla popolazione generale. Grazie professor Pregliasco, buon viaggio, buona continuazione. Buona giornata a tutti. Grazie. Ritorniamo sulla pagina economica e finanziaria, parliamo della Banca Centrale Europea. Draghi, il presidente della Finlandia, ha annunciato che sono allo studio nuove misure di stimolo per l'economia, di questo tra poco parleremo. E per restare su fatti economici, il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, ha confermato che dopo 3 anni e 13 trimestri negativi l'Italia potrebbe tornare alla crescita nel primo trimestre. Dice probabilmente sì, i segnali che abbiamo spingono in questa direzione, ma sarà una ripresa debolissima, ha avvertito Squinzi nella registrazione della puntata di Porta a Porta. Per la politica, parliamo delle nuove espulsioni nel Movimento 5 Stelle, del leader di Sel Vendola che lancia l'alternativa di sinistra Renzi. Ne parleremo direttamente con Vendola, tra poco parleremo con il leader di Sel Vendola e parleremo anche con uno dei più critici deputati del Movimento 5 Stelle all'interno del Movimento per queste espulsioni. Estero, il numero di disoccupati in Francia a ottobre è aumentato dello 0,8% rispetto al mese precedente, ha raggiunto il nuovo record storico di 3,3 milioni,46 per quanto riguarda la Francia. Adesso torniamo invece con la cronaca in Italia, con un assalto da film che c'è stato oggi. Chiodi sull'autostrada, un'auto e due furgoncini bruciati su una carreggiata, un camion dato alle fiamme sull'altra, tutto per tentare l'assalto a un portavalori che trasportava 5 milioni di euro. Ore di panico nell'autostrada 1, chiusa per tutta la mattina nell'Odigiano all'altezza di Livraga in direzione Milano. La rapina non è riuscita, ma il comando è scappato. Forse la stessa mano dell'assalto del 2013 in Lombardia, ma analogie anche con quelli successi in Puglia, dice a Radio 24 il capo della squadra mobile di Lodi, Alessandro Battista. Lo ha intervistato Raffaella Calandra. Complessivamente i mezzi che hanno utilizzato sono una quindicina. 8-9 persone sono sicuramente quelle che alla conta risultano, non escludiamo ve ne siano anche di più. La tipologia dell'assalto e la tipologia anche delle armi usate, che cosa vi fa pensare? Ci fa pensare a un gruppo sicuramente ben organizzato, che ha pianificato con cura l'assalto. Sono armi da guerra, sì. Una squadra di italiani, non di stranieri? Abbiamo delle testimonianze che ci indicano degli italiani come le persone che hanno intimato ad alcuni automobilisti di stare indietro, ecco. Sembra una tipologia molto simile anche con gli assalti ai portavalori che fanno in Puglia. Assolutamente, ci sono proprio le analogie sul modus operandi. Col modus operandi di quello della Puglia? Sì, sì. E invece con un altro assalto, quello che c'era stato qualche anno fa, sempre in Lombardia, forse una mano simile? Sì, ci sono molte similitudini, hanno lì anche aperto un varco per uscire. Modalità uguali vi fanno pensare che possa essere la stessa banda? Sì. Siccome questi colpi non sono tantissimi, diciamo che si può pensare che la scuola sia la stessa, ecco. E per chiudere, lo sport si aggrava. Pelé trasferito in un reparto specializzato, si erano le sue condizioni, è stato ricordato lunedì scorso in un ospedale di San Paolo per un'infezione alle vie urinarie. Le condizioni del paziente sono instabili, per essere meglio monitorato è stato trasferito in unità specializzata, così hanno detto col bollettino medico dell'ospedale Albert Einstein di San Paolo. E poi ci sono altre notizie, c'è l'Europa League, intanto quelle le squadre italiane che hanno giocato nel pomeriggio, Napoli contro lo Sparta 0-0 e si sono qualificati i giocatori del Napoli, e poi col Guing Fiorentina 1-2 ha vinto la Fiorentina. Ci sono adesso in campo invece Inter e Torino, l'Inter contro Dnipro e il Torino contro il Bruges, vedremo poi quali sono gli aggiornamenti, per il momento è 0-0 per tutte e due le partite. E c'è in corso anche la partita della nazionale femminile contro l'Olanda per le qualificazioni in Canada. Di tutto questo parleremo soprattutto verso la fine di Effetto Notte. Voi potete continuare a scrivere le vostre opinioni su al 349-238-6666 sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Parleremo molto di politica, vi dicevo, ci sarà Vendola tra poco e ci sarà anche Rizzetto del Movimento 5 Stelle per parlare di queste espulsioni che ci sono state oggi con la consultazione online. Vedo Daniele che scrive, perché abbiamo appena parlato anche dei vaccini che possono aver causato in modo sospetto delle morti, ma il professor Pregliasco lo escludeva, dice: per caso non è che il vaccino arriva dalla Cina, spesso si sente dire questo, a volte è un puro pregiudizio, pare che non sia questo il caso. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi. Beh, stavo guardando le notizie che stanno arrivando, anche se ci sono degli aggiornamenti per esempio sul blocco dei vaccini, vedo anche nella regione Sicilia e nella regione Molise, però per il momento appunto non c'è nessun allarme, bisogna capire se effettivamente sono collegate queste morti alla somministrazione dei vaccini. E vi ribadisco quali sono le notizie principali del giorno. Tre morti sospette, l'AIFA, l'agenzia del farmaco, blocca il vaccino anti-influenza, stop per due lotti, i decessi sono avvenuti dopo 48 ore in Sicilia e in Molise. Poi il Movimento 5 Stelle nel caos, espulsi con voto online deputati Artini e Pinna, i ribelli vanno da Grillo, intanto Pizzarotti, sindaco di Parma, dice fermiamoci in tempo. Renzi afferma bisogna superare il pantano con le riforme, guerra agli evasori fiscali, intanto c'è caos nel PD e c'è anche il nodo del Quirinale di cui si parla da diverso tempo. Draghi, presidente della BCE, dice da sola la banca centrale non basta, non può fare da sola e ci sono dei rischi per la crescita europea. E poi la legge di stabilità, che probabilmente vedrà voto di fiducia e si lavorerà sabato e domenica in Parlamento. Poi abbiamo parlato per la cronaca di un assalto da film che c'è stato a un portavalori sulla 1. E poi per chiudere l'aggravamento delle condizioni di Pelé e le squadre in Europa League che stanno giocando in questo momento, che sono Inter e Torino, sempre 0-0 con le squadre avversarie, e la nazionale femminile, che poi capiremo che tipo di risultato sta raggiungendo. Parliamo quindi di economia, prima di tutto, prima di passare alla politica, parliamo della legge di stabilità, che è ancora in divenire, però mi pare di aver capito, Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore, ciao Alberto. Buonasera a tutti. Che qui c'è del lavoro straordinario, i parlamentari tanto accusati di lavorare dal martedì al venerdì e poi starsene a casa, anche il sabato e forse domenica lavoreranno per votare le fiducie, la fiducia. Eh sì, perché hanno deciso di stringere molti tempi, d'altro canto devono evitare l'ingorgo dei diversi provvedimenti tra i due rami del Parlamento, e quindi hanno deciso di lavorare anche eventualmente nel weekend qualora non riuscissero a vagliare tutti gli emendamenti. D'altro canto la Commissione ha fatto rapidamente il suo esame e ha mandato un testo all'Aula che però ha ancora molte falle che dovranno essere riviste su temi anche molto sensibili come sono TFR e cose di questo genere, insomma, che sono molto delicate e sono oggetto naturalmente di discussione molto sensibile politica. Senti, a proposito di delicatezza, anche la questione del canone nella bolletta elettrica pare che sia saltato definitivamente da questa legge di stabilità, potrebbe poi rientrare in un decreto legge a gennaio? Sì, esatto, perché il problema è che su quel tipo di entrate in qualche modo, mi sembra di aver capito, il Ministero dell'Economia e il Governo ci facevano conto, hanno capito che ci sono enormi problemi tecnici nel tentare da subito di mettere in bolletta questo tipo di entrata, e quindi si sono rassegnati, diciamo così, a non usare il veicolo normativo della legge di stabilità. Però una volta esperite, diciamo così, le analisi tecniche per come rendere più efficiente il recupero attraverso le bollette, che non sia incostituzionale, non crei problemi di ricorsi a valanghe eccetera, mi sembra il governo voglia andare avanti, anche se non sarà semplice. Mi sembra un'operazione un po' a rischio, un po' troppo calcolata in velocità, o meglio non calcolata, per essere sinceri. Senti, domani dovrebbe esserci anche il via libera, diciamo, politico alla manovra da parte dell'Unione Europea, nel senso che non è vincolante, ma è chiaramente ha un certo peso il fatto che... No, sicuramente è un via libera molto importante. Fino adesso si è capito che hanno voluto manifestare una certa clemenza rispetto alla nostra legge di bilancio, che non è perfettamente ortodossa rispetto ai talebani del rigore europeo, però ci hanno costretto a fare una correzione alla correzione del deficit dello 0,3%, che noi in parte avevamo già calcolato e il governo Renzi aveva messo in cantiere, e adesso ci stanno dando un po' di respiro, però sono stati molto severi nelle anticipazioni che sono uscite nei giorni scorsi nel ricordarci che il corredo fondamentale per mantenere la fiducia e per ottenere il via libera dell'Europa è fare le riforme rapidamente. Non a caso il Parlamento sta dimostrando tutta questa velocità nell'approvare poi i provvedimenti strategici e più importanti che servono poi a Renzi per andare in Europa a dire: vedete, noi i compiti a casa li abbiamo fatti. Ecco, proprio di compiti, Gio da Cagliari scrive: il furbetto più ignobile è proprio Renzi, che aveva promesso di tagliare auto blu, enti inutili, sprechi, invece non ha fatto altro, nulla, dice, regalando 80 euro a 10 milioni di lavoratori per garantirsi il voto. Beh, è un po' semplificata come cosa, però indubbiamente la cosa degli 80 euro è stata il cuore centrale dell'azione di politica economica del governo e non ha avuto gli effetti che sperava nella ripresa dei consumi e nel rilancio del PIL, quindi è stata effettivamente una elargizione a quello che si sarebbe chiamato il ceto medio impoverito, per così dire, perché comunque un lavoro devi avercelo per avere gli 80 euro, mentre chi è fuori veramente, chi è nell'area della povertà, dell'emarginazione, dell'esclusione, non ha visto una lira. Come invece si sarebbe detto una volta. Ecco, diciamo, appunto, ci rimane questa cosa lì del nostro DNA ormai. Draghi della Finlandia ha annunciato che sono allo studio delle nuove misure di stimolo per l'economia. Quindi tutto uno stimolare. Quali sarebbero in sintesi queste misure, Alberto Rioli? Beh, le misure che ha in serbo Draghi sono fondamentali, e infatti anche oggi hanno dato lustro a una giornata sui mercati straordinaria, nel senso si sono abbassati tutti i rendimenti dei titoli di Stato di tutti i paesi dell'area euro, ed è un segnale importante che tutti confidano che prima o poi la Banca Centrale Europea comprerà titoli di Stato dei paesi che per l'appunto fanno parte del paniere dell'euro, e questo consentirà al sistema economico di avere molta liquidità a disposizione che dovrebbe finalmente, come non è stato fatto finora, trasferirsi all'economia reale e quindi rilanciare gli investimenti, la crescita, i redditi, l'occupazione, tutto quello che serve a far ripartire il paese e a ritrovare la felicità. Buon, allora, buona felicità anche a te, Alberto Rioli. Grazie a tutti. Il prima possibile, grazie Alberto. Ciao. Non credo che ci sia molta felicità in questo momento, invece nel Movimento 5 Stelle c'è piuttosto caos. Anche ieri abbiamo parlato con un esponente, il capogruppo cercato alla Camera del Movimento 5 Stelle, Cecconi, e oggi ci sono, ieri perché c'era questo diktat sul fatto di non ritornare in televisione, e oggi sono state due nuove espulsioni del Movimento 5 Stelle, ma non per la TV. Il risultato elettorale, tra l'altro, arriva dopo le regionali in Emilia Romagna e in Calabria, che dicevamo già ieri non sono state lusinghiere per il Movimento 5 Stelle. A essere stati buttati fuori dal movimento di Grillo e di Casaleggio questa volta sono i deputati Massimo Artini e Paola Pinna, da tempo già considerati dissidenti. In un lungo post pubblicato sul blog, la loro cacciata è stata sottoposta al voto della rete, che si è concluso praticamente in serata alle 19. Ebbene, alla votazione hanno partecipato 27.818 iscritti certificati, i sì per buttarli fuori, per espellerli, sono stati 19.436, pari al 69,8%, quindi possiamo dire il 70%, i no 8.382, pari al 30,2%. L'accusa qual è? È che non hanno restituito i soldi della diaria. Pinna, la deputata, dice falso, ecco i bonifici. È stato spiegato che i due non avevano rispettato il regolamento dei 5 Stelle, in cui viene imposto ai deputati e ai senatori di restituire parte della diaria e delle eccedenze dello stipendio dei parlamentari. Tutti e due si sono difesi dicendo che non è vero, e c'è il sindaco di Parma, che da tempo insomma è piuttosto in contrasto con Grillo, e dice: spero che qualcuno riprenda lucidità. Ora voglio coinvolgere l'onorevole Walter Rizzetto. Buonasera onorevole. Buonasera, buonasera a lei. Deputato del Movimento 5 Stelle, che insomma è dentro il Movimento 5 Stelle, ma è uno dei più critici. Intanto è andato in televisione ultimamente, mi pare che dopo l'arrabbiatura di Grillo abbia scritto anche una lettera sul suo blog dicendo che insomma è un po' di autocritica, di sana autocritica, è sinonimo di maturità, non solo politica. Dice: non sono l'unico a pensarlo, se c'è invece, se la pensiamo diversamente, c'è qualche problema tra noi. Insomma, diciamo che lei cerca di far valere la sua posizione personale. Che ne pensa di questa doppia espulsione di oggi, Rizzetto? Guardi, non è propriamente una posizione personale, visto che sono in molti i deputati del Movimento 5 Stelle che la pensano come me. Per quanto riguarda l'espulsione di oggi, io mi sono sempre dichiarato contrario alle espulsioni, quelle precedenti e anche evidentemente a quelle odierne. Si tratta sempre di soldi, nel senso che sul blog di Grillo oggi si è scritto che i deputati, ora non l'ho letto bene, ma mi sembrava che il senso fosse i deputati non hanno rendicontato, non hanno restituito. Questo è falso, perché i deputati hanno dimostrato, e sfido chiunque a dimostrare il contrario, visto che hanno prodotto anche i bonifici eseguiti, quindi non la presa in carico, ma il bonifico effettivo eseguito, e quindi è una motivazione che non sta in piedi. Ora, io non lo so perché siamo arrivati a questo. So soltanto che Paola Pinna e Massimo Artini sono due ottimi colleghi in cui abbiamo, a questo punto devo usare il tempo passato, abbiamo fatto un percorso interessante, molto interessante assieme. Sono due deputati che hanno sempre lavorato e nelle commissioni e all'interno del gruppo parlamentare. Mi sembra che questo trattamento, insomma, è stato un brutto trattamento quello che gli è stato riservato. Tutto qui, ripeto, non lo so perché, in questo caso non dovete chiederlo a me sulle motivazioni. Per quanto ci riguarda, abbiamo visto i bonifici, abbiamo visto la rendicontazione dei due deputati e nulla per quanto mi riguarda ostava al fatto di chiaramente tenere due risorse all'interno di un gruppo parlamentare. Quindi, Rizzetto, questo farebbe pensare, se le dice che si sono visti chiaramente i bonifici, che ci sia qualcos'altro dietro, ci sia attaccati a una scusa per farli fuori? Oddio, le ripeto, questo non deve chiederlo a me, ma deve chiederlo a chi ha posto la domanda sul blog. Penso che sia un'espulsione a questo punto un po' strumentale. Lei è a rischio di espulsione, Rizzetto, dopo quello che sta dicendo, fra l'altro, oltre al fatto di essere conosciuto come un dissidente, un po' critico nel Movimento 5 Stelle? Guardi, io lascerei a questo punto perdere, anche come già suggerito a più di qualcuno, i termini dissidenti, ortodossi, eccetera, eccetera. Io ho sempre cercato di apportare con almeno 10 ore di lavoro al giorno acqua al mulino del Movimento 5 Stelle. Dormo con tutta la, mi creda, lasciando stare qualsiasi tipo di arroganza e con tutta la modestia di cui in questo momento sono capace, dormo veramente il sonno dei giusti, nel senso che il mio lavoro è visibile a tutti. Se dopo non si vuole cercare di capire che una critica costruttiva può essere propedeutica anche eventualmente ad un ripristino in termini di elettorato, perché alla fine i partiti politici, i movimenti politici vivono sull'elettorato, giustamente, per cercare anche di far valere tutto quello che le nostre ottime, devo dire, amministrazioni locali e regionali e comunali stanno facendo in termini di feedback, allora non so più che cosa fare, nel senso che io ho partecipato 2 giorni fa o 3 giorni fa, adesso non ricordo, di una trasmissione televisiva dove abbiamo parlato un po' dell'esito della tornata elettorale in Emilia Romagna ed in Calabria, piuttosto che di un provvedimento che era all'epoca, quindi 3 giorni fa, in aula, che era il Jobs Act. Non mi pare di aver conosciuto nessuno. Rizzetto, c'è una deputata del Movimento 5 Stelle, Mara Mucci, che oggi le dice appunto la sua critica, non è una posizione solo personale la sua di Rizzetto, ma siete in tanti a pensarla. Oggi ha lanciato su Twitter un hashtag, Beppe fermati, si parla ancora di scontrini, Massimo Martini e Paola Pinna hanno restituito e rendicontato. Beppe fermati è un po', nel senso, un appello, un annuncio, un monito, un grido disperato per dire stiamo andando nella direzione sbagliata, non è che si può star sempre a discutere di scontrini. Ritengo che questo hashtag, che io non ho visto, ma sono curioso, adesso andrò a vederlo, si basi insomma sulla scorta di quanto detto da Federico Pizzarotti, non in intervista, ma forse in un messaggio Twitter nel primo pomeriggio, aveva indicato la necessità proprio di fermarsi, di sedersi, di guardarsi negli occhi, anche con un contraddittorio, con un dibattito acceso, per cercare di risolvere le cose. Quindi c'è bisogno in questo momento di fare autocritica, un sano bisogno di fare autocritica. Io penso che l'autocritica vada effettuata anche quando le cose riescono bene, figuriamoci quando le cose riescono non proprio bene. Noi ci meritiamo molto di più rispetto all'esito elettorale delle regionali in Emilia ed in Calabria. Dobbiamo semplicemente capire perché non siamo riusciti ad arrivare nella pancia e nelle teste di un elettorato che effettivamente meritiamo. Quindi forse la comunicazione va un po' rivista. Grazie Walter Rizzetto. Grazie buona continuazione. Grazie a voi. Grazie. Ci prendiamo una pausa, voi potete commentare naturalmente quello che avete sentito a proposito del Movimento 5 Stelle, poi ci sarà invece per Sel direttamente Nichi Vendola, c'è sempre il numero per i messaggi 349-238-6666 e poi c'è la pagina Facebook di Effetto Notte. Stavo guardando intanto un messaggio che è di Clotilde che dice forza Nichi, devi farci sognare e sperare, abbiamo bisogno di una sinistra solidale, ti abbraccio, e poi come la vedi l'alleanza con Civati, a tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, ringrazio Emma per il suo messaggio, poi aggiunge espulsione di 5 Stelle, pubblicità per il movimento. E poi Antonio invece scrive sulla pagina Facebook di Effetto Notte, chi semina vento raccoglie tempesta e questa volta è molto forte il vento riguardo al Movimento 5 Stelle, ma non ho capito bene se è contro Grillo il Movimento 5 Stelle o contro i dissidenti, Tonio, poi magari ti chiarisci, ma le notizie principali sono... Vaccino antinfluenzale, l'AIFA lo blocca per 3 morti sospette, stop per 2 lotti, decessi a 48 ore dalla somministrazione, anche se il virologo Aiuti adesso in una agenzia precisa di non essere d'accordo con l'Istituto Superiore di Sanità, perché dice l'immunologo Aiuti il termine di segnalazione di eventi avversi indicato in 2 giorni è limitativo e i problemi neurologici possono manifestarsi anche dopo 1 o 2 settimane. La mia raccomandazione è che gli eventi avversi vengano segnalati almeno fino a 30 giorni dalla vaccinazione. Poi la legge di stabilità, ultime modifiche prima dell'approdo in aula domani. Il Movimento 5 Stelle, con la consultazione online, sono stati espulsi altri 2 deputati. Sel, Nichi Vendola, tra poco lancia Human Factor. E poi per il calcio ci aggiorneremo tra poco. Adesso parliamo di politica. Ne abbiamo parlato in realtà molto in questi giorni, anche più del solito. E abbiamo parlato di mal di pancia all'interno di Forza Italia, del PD, del rischio di scissione costante, insomma, che va avanti da mesi, perlomeno da quando Renzi è diventato segretario e poi presidente del Consiglio. E in realtà il problema è soprattutto quella dell'identità dei partiti, diciamo c'è una crisi identitaria da tempo, è un dibattito che in verità va avanti da molto tempo. E si sta parlando ultimamente anche molto di cosa è di sinistra in realtà dentro il PD di Renzi. Bene, a questo punto si fa avanti Sell, o meglio il leader di Sell, Nichi Vendola, che lancia una sfida politica al presidente del Consiglio Matteo Renzi e lo fa annunciando, ha annunciato oggi una convention dal nome Human Factor, che è la risposta a sinistra della Leopolda renziana, e sarà a Milano dal 23 al 25 gennaio. Questa convention vuole chiamare a raccolta la sinistra italiana, creare un'alternativa a Renzi, una federazione della sinistra, insomma un nuovo soggetto politico alternativo al PD. E addirittura Nichi Vendola ha detto: voglio riunire la sinistra per battere la destra incarnata da Renzi. Quindi, Nichi Vendola, buonasera. Buonasera, salve. Quindi, Renzi è di destra? Io intanto, se mi posso consentire, vorrei dire che in quest'epoca in cui la vita pubblica vive prevalentemente di battute frizzanti, di espressioni mordaci, talvolta volgari, l'idea che una comunità politica, un partito come Sinistra Ecologia e Libertà, decida di discutere del fattore umano, di quei dilemmi che riguardano il passaggio d'epoca che stiamo vivendo, non soltanto la crisi economica, la crisi sociale, ma la crisi antropologica, e quello che da questa crisi dobbiamo estrarre in termini di lezione per il futuro, come ricostruiamo una tavola dei valori per il futuro, come ricostruiamo un vocabolario per il futuro. Ecco, a me pare una scelta importante, perché si tratta di mettere insieme due parole che vivono da troppo tempo separate, divorziate: politica e cultura. Noi pensiamo che la politica abbia bisogno di densità culturale, di senso storico, di pensieri lunghi, di essere coltivata da meno rumori e da più saperi, e abbiamo bisogno che la cultura illumini il percorso della politica. Come fa la politica ad affrontare gli effetti della mutazione climatica, le vicende della meteorologia in Italia, se la politica è capace di chiedere alla cultura: dammi una spiegazione su che cosa è accaduto al territorio italiano, spolpato, devastato e mercificato in questa maniera? Ecco, questa è la prima cosa, the human factor, cioè non è possibile che il pontefice, questo straordinario uomo venuto alla fine del mondo, si interroghi sui effetti del liberismo, sulla brutalità di una società tutta mercantile, su quello che ci manda a dire la natura, il paesaggio, la bellezza, invece la politica resti sempre prigioniera del teatrino. E poi ovviamente dentro a questa convention noi vogliamo sentire tante voci, una polifonia, molte voci, molte sensibilità, molte culture italiane che ci aiutano in questa ricerca, la sinistra del futuro. E ci ha prospettato di uscire dalla sinistra novecentesca, però la verità è che siamo entrati nella destra ottocentesca. Nichi Vendola, ma se lei dovesse dire, mi perdoni, che cos'è di sinistra oggi, visto che secondo lei non lo incarna Renzi la sinistra, anzi incarna la destra, due o tre elementi proprio molto chiari. Di sinistra è rompere le barriere sociali, le barriere culturali, le barriere architettoniche, abbattere i muri è di sinistra. Di sinistra è dare diritti a chi non ne ha. Di sinistra è costruire una cittadinanza fondata sull'eguaglianza e sulla libertà di ciascuno. Di destra è difendere un mondo fondato sul privilegio, su una idea del fisco che è criminale. Di destra è avere confidenza con certi strani commensali che magari sono finanziatori di partito, e non avere confidenza invece con i lavoratori. Ecco cos'è di destra. Nichi Vendola, la cosa che vorrei chiedere è: secondo lei perché comunque Renzi in questo momento ha così consenso in Italia, riesce a raccogliere così tanto consenso? Perché la sinistra, quella vera, è considerata, è ormai minoritaria nel nostro paese? Renzi fa un lavoro ancora più complesso, riesce a raccogliere un punto altissimo di consenso, ma in voti assoluti anche il suo 41% alle europee non è il punto più alto della storia della sinistra, ma Renzi riesce invece a produrre il punto più alto di dissenso nella storia d'Italia, perché il 64% di elettori della rossa Emilia Romagna che non vanno a votare forse sono uno dei frutti avvelenati del renzismo. Mi dice quali sono i punti principali di un possibile programma di questa federazione della sinistra che dovrebbe nascere? Non la chiamerei federazione della sinistra, la chiamerei con il nome che verrà. Quindi non la chiamerei, intanto il nome c'è di un partito che è Sinistra Ecologia e Libertà. Certo. Noi vogliamo far vivere tante cose in un processo che deve avere come agenda programmatica, io credo, innanzitutto la lotta alla precarietà. La lotta alla precarietà non è soltanto la lotta contro i contratti a tempo determinato, i contratti del ricatto e della paura, è la lotta contro la precarietà della vita, la precarietà degli anziani o dei bambini poveri, la precarietà delle donne spaventate dal femminicidio, la precarietà dell'ambiente naturale devastato ogni giorno da questo modello di sviluppo. Ecco, un programma di governo di una sinistra che sfida Renzi per batterlo, fa il contrario dello sblocca Italia, non sblocca il cemento, ma pone il problema della cura, della messa in sicurezza, della manutenzione del territorio come contenuto centrale. Una sinistra di governo moderna e riformista non insegue la TAV in Val Susa, il MOSE nella Laguna Veneziana o il Ponte sullo Stretto, ma ripulisce i fiumi, lotta contro l'erosione della costa, rimette la chioma in testa alle montagne. È una sinistra che fa il contrario di quello che concretamente fa Renzi, che è in continuità con quello che è accaduto in una lunga stagione di aggressione del territorio. La sinistra che sogno io è quella che dice: l'articolo 18 sì, vale per tutti, è esteso a tutti i lavoratori e le lavoratrici, perché insomma che nessuno debba essere licenziato, a meno che non vi sia una giusta causa, non è un privilegio corporativo, è un diritto, è un elemento che qualifica una civiltà. L'idea che invece noi oggi parliamo del diritto di licenziare e non del diritto di lavorare, dice che siamo finiti dentro una brutta deriva. Il rapporto col sindacato, Vendola, imbarcherebbe Landini dentro SEL, dentro Human Factor, quello che nascerà insomma da quella convention di gennaio? Ma io non devo imbarcare nessuno. Maurizio Landini, la FIOM, ma anche la CGIL sono i protagonisti fondamentali dell'opposizione sociale al governo Renzi e quindi sono, diciamo così, in campo. Non devono essere convocati, siamo noi che affianchiamo, siamo accanto al movimento dei lavoratori, perché le piazze piene di lavoratori, di giovani, quelle che sono tornate in Italia in maniera prorompente, sono veramente l'architrave fondamentale di un'idea di futuro e di democrazia. Nichi Vendola, allora io do appuntamento per chi sarà con voi dal 23 al 25 gennaio a Milano, giusto? Per Human Factor, il fattore umano, ciò che chi governa il mondo troppe volte considera un residuo della poesia e non un elemento determinante delle politiche pubbliche. Per me il fattore umano deve essere in cima alla costruzione della politica del futuro. Grazie, allora buona continuazione, Nichi Vendola. Grazie a voi, grazie. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. È il momento di parlare di Europa. Europa 24 notte. E ci occupiamo di spreco alimentare. Ogni anno in Europa vengono disperse 100 milioni di tonnellate di alimenti e nel mondo la quantità arriva a 1,6 miliardi di tonnellate, cioè un terzo della produzione mondiale di cibo. Tutto questo mentre 805 milioni di persone risultano cronicamente sottonutrite. È dall'allarme per questi dati e la necessità di attivare nuove buone pratiche che è stata creata la Carta di Bologna contro lo spreco alimentare, un'iniziativa nata nell'ambito del semestre di presidenza italiana dell'Unione Europea, lanciata in occasione della Settimana Europea dei Rifiuti, è stata ideata nel contesto del Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti, presieduto dall'agronomista Andrea Segre. Sentiamolo al microfono di Alessandra Schepisi. È un'azione partecipata dai governi, partito il ministro dell'ambiente italiano, semestre europeo, a coinvolgere gli altri ministri dell'Europa per condividere un documento, Carta di Bologna, con per adesso 11 punti di contrasto allo spreco, però a livello internazionale, perché è un problema mondiale lo spreco di cibo. Secondo i dati della FAO, un terzo della produzione viene gettata via e potrebbe essere ancora consumata. qual è l'azione che si farà a coinvolgere i governi di tutti i paesi che partecipano a Expo e il 16 ottobre del 2015, che sarà la giornata mondiale dell'alimentazione, prendere solennemente questo impegno per delle azioni concrete da mettere in campo a livello internazionale ed europeo e di singolo paese per contrastare questa piaga che è uno scandalo, buttare via del cibo ancora buono con tanti affamati. Ma finora non c'erano degli impegni, delle azioni comuni? Di fatto questo è il primo documento, forse l'antesignano è la risoluzione del Parlamento europeo del gennaio del 2012, che peraltro avevamo promosso sempre noi con la campagna Un anno contro lo spreco, noi dico Last Minute Market, Università di Bologna, e questo è il documento, il primo documento, diciamo, dove un'istituzione internazionale come il Parlamento europeo prende un impegno, peraltro molto chiaro, dimezzare gli sprechi alimentari in Europa entro il 2025. Però è rimasto, diciamo, un documento di indirizzo che ancora la commissione esecutiva, quella che poi fa i regolamenti e le direttive, non ha applicato. Quindi di nuovo è riportare l'attenzione a livello internazionale in questo caso, perché poi i governi mettano in pratica ciò che si può davvero già fare. Ecco, quindi cos'è che si può fare? Di quali azioni si tratta? Possiamo fare due punti che secondo me sono fondamentali. Uno, l'inizio. Lo vogliamo definire lo spreco alimentare? Sembra una questione accademica, ma in funzione degli elementi che consideri come perdita, come spreco, dei settori, delle possibilità di recuperare, di riciclare, di riusare i prodotti, cambiano anche le politiche e gli strumenti di intervento, e non c'è ancora una definizione comune. Lei che definizione darebbe? Spreco è tutto ciò che, diciamo, ancora buono di cibo, naturalmente, finisce nella spazzatura con un costo economico e un costo ambientale. Adesso dico un qualcosa che gli ascoltatori possono capire. Per te è spreco la cornice della pizza oppure no? Se la lasci, diciamo, non mangiata, sembra una cosa stupida, ma ha un'incidenza notevole. Adesso lo dico solo per comprenderci, ma ci sono molti particolari molto più tecnici. E l'altro punto fondamentale, che peraltro è il primo nel programma nazionale per contrastare lo spreco italiano, è l'educazione alimentare. Perché gettiamo via il cibo, soprattutto nelle economie cosiddette sviluppate? Perché abbiamo perso il suo valore. E il fatto di gettare del cibo ancora buono significa non considerare più quello che è il cibo, che ha un valore nutrizionale, un valore ambientale, un valore sulla salute, ha un valore economico ovviamente. Allora ecco, inserire o reinserire a scuola l'educazione alimentare, l'educazione ambientale, come se fossero, diciamo, dei capitoli della nostra educazione civica, o come si dice adesso, alla cittadinanza, è fondamentale. Entrambi i punti che ho detto sono presenti in questa carta che, ripeto, è già stata condivisa dalle cancellerie europee. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. E ora un sacco di calcio con Giovanni Capuano. Giovanni. Eccomi Roberta, tantissimo calcio. Quante partite, anche la nazionale femminile, che non so se non sta andando tanto bene? Ma no, la nazionale femminile non sta andando tanto bene, mancano 20 minuti, a questo punto serve un'impresa. Italia, che sta giocando lo spareggio per qualificarsi ai mondiali, aveva pareggiato settimana scorsa 1-1 in Olanda, e questo era buon viatico, però è sotto a Verona per 2-1 quando siamo al 25esimo del secondo tempo, e le olandesi si erano portate sul 2-0 già nel primo tempo con una doppietta della Miedema, poi c'è stato un autogol a inizio ripresa, 2-1, ma l'Italia a questo punto deve vincere, non può nemmeno accontentarsi del pareggio con tanti gol, perché il pareggio per 2-2 qualificherebbe l'Olanda. E poi c'è in campo l'Europa League. Sono appena finiti i primi tempi di Inter e Torino, che sono le due gare iniziate alle 21.05, e stanno entrambe pareggiando. L'Inter 1-1 in casa contro la Dnipro, che si era portata in vantaggio al 16esimo con Rotan e che ha anche sbagliato un calcio di rigore al 28esimo, un rigore parato da Andanovic, che è al sesto rigore consecutivo parato, davvero un mostro, il numero uno al mondo in questa specialità. Rigore sbagliato, e poi dopo due minuti minuti il pareggio dell'Inter firmato da Kuzmanovic. Squadre negli spogliatoi, con questo risultato l'Inter sarebbe qualificata al secondo turno, però serve la vittoria per essere certa del primo posto nel girone. E poi 0-0 tra Torino e Bruges, una partita abbastanza vivace che il Toro però non è riuscito a sbloccare. Toro che ha bisogno di vincere per qualificarsi, altrimenti poi si rimanda tutto la trasferta a Copenaghen, e non è semplice, anche se il Copenaghen sta perdendo a sorpresa contro l'Helsinki. Ti aggiorno rapidamente anche sulle altre due italiane, gare che si sono concluse intorno alle 21. 0-0 del Napoli in trasferta contro lo Sparta Praga. Napoli fortunatissimo perché lo Sparta Praga ha preso due traverse, però con questo pareggio il Napoli è qualificato con 90 minuti d'anticipo. E invece ha vinto 2-1 la Fiorentina Gengamp, Marin e Babacar, rete dei francesi su rigore. Fiorentina che già era qualificata e che è certa del primo posto in classifica. Direi che avrei detto tutto. Tutto. Grazie Giovanni Capuano, molto sintetico, molto esauriente. Noi ci sentiamo tra pochi istanti.